Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, oggi partiamo dalla notizia cattiva. La notizia cattiva è quella della disoccupazione giovanile che torna a salire nella zona euro. A ottobre tocca il 22,3% in risalita, appunto, in questa fase. In Italia pesante il dato, 39,8%, era 39,4%, il quarto tasso più elevato dei 19 paesi dell'area euro dopo la Grecia, pensate 47,9%, Spagna 47%, Croazia 43. L'altra metà di questa, appunto, raccolta di Eurostat sull'occupazione è che la disoccupazione nell'area euro scende, quindi quella complessiva ovviamente, a ottobre a 17%, facendo registrare così il tasso più basso dal gennaio del 2012. Come vi dicevo, questi sono dati Eurostat. E ora la sicurezza. La situazione della sicurezza in cui ci troviamo oggi è buia. Questo direi il commento, la frase da estrapolare dalla dichiarazione di Jens Stoltenberg, il segretario generale della NATO, arrivato al quartier generale dell'Alleanza, che è a Bruxelles, a circa 10 minuti d'auto dai palazzi della Commissione. Alleanza che oggi e domani ospita la ministeriale estera, al quale partecipa anche l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Federica Mogherini, nell'ottica appunto di una maggiore cooperazione tra UE e NATO. Ecco, al centro sicuramente del dibattito della NATO e non solo, la questione Turchia-Russia, Russia-Turchia, è come alimentare una sorta di de-escalation, come calmare le tensioni e rafforzare i meccanismi per evitare incidenti come quello appunto che sta avvelenando di fatto i rapporti tra la Russia e la Turchia e dunque la NATO. Il servizio. Neppure il summit sul clima a Parigi serve a riavvicinare Russia e Turchia in rotta di collisione dopo l'abbattimento di un bombardiere al confine con la Siria, e spicca la strategia soft degli europei, né con Putin né con la Turchia. L'alto rappresentante della politica estera europea Federica Mogherini ha sintetizzato la linea. La prima telefonata dopo l'attacco turco al jet russo è stata al segretario generale della NATO Stoltenberg, poi al ministro degli esteri turco e a quello russo. Il senso emerso dalle tre telefonate è uno solo: abbassare i toni, evitare un'escalation, non trasformare un episodio in un casus belli. Viviamo in tempi difficili, ma bisogna guardare il quadro generale della lotta contro l'ISIS per evitare che lo scenario peggiori e ulteriori fasi di tensione. Un incidente per cui da Mosca pretendono le scuse, che Erdogan non sembra disposto a porgere. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha chiesto oggi a Turchia e Russia di superare le loro divisioni e di concentrarsi sul nemico comune, il gruppo jihadista dello Stato Islamico. Obama ha lanciato il suo appello dopo aver incontrato a Parigi il suo omologo turco Erdogan, mentre ieri Obama ha avuto un bilaterale con il presidente Putin, che ha generato un nuovo scambio di accuse. Il jet è stato colpito, ha sostenuto Putin, per proteggere il traffico di petrolio dell'ISIS. Immediata la replica di Erdogan: se questo viene dimostrato, io mi dimetterò. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E sul fronte siriano c'è un'altra notizia che riguarda l'Unione Europea, che boccia di fatto il comportamento della Siria per quanto riguarda le informazioni fornite circa l'uso delle armi chimiche. Jacek Bilica, il principale consulente dell'alto rappresentante Mogherini per quanto riguarda la non proliferazione, ha rilevato che le dichiarazioni di Damasco sul proprio arsenale chimico sono piene di vuoti, mancanze e contraddizioni. Insomma, una pagina tesa, quella sul fronte internazionale. In tutto questo vi segnalo che continua la trattativa per il TTIP, quindi il grande accordo commerciale che si sta discutendo tra Stati Uniti ed Europa, e che in una ipoteticamente potrebbe costituire il più grosso blocco economico del pianeta. Ecco, oggi si è parlato di agricoltura. Sul fronte del comparto agroalimentare, negoziati per l'accordo commerciale di libero scambio non si basano sull'attuazione di standard uguali, ma piuttosto equivalenti. A spiegarlo oggi a Bruxelles il segretario di Stato americano all'agricoltura Tom Vilsack, dopo l'incontro con il suo omologo, il commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan, che invece è irlandese. Non avremmo negoziati commerciali se chiedessi al sistema UE di adattarsi al nostro, e non avremmo successo se l'UE chiedesse agli Stati Uniti di adattarsi. Insomma, quello quello che dice il segretario di Stato è di cercare misure non tanto uguali ma equivalenti nel rispetto della libertà dei consumatori poi di compiere delle scelte. Con questa notizia è tutto, naturalmente la linea va allo sport e noi ci risentiamo domani, un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.